grazie altrettanto, ciao Lugarie. Avanti su 10. Buonasera, lo più uno. Ciao già, dove sei? Me, la prima rotazione della Terroce. K. Tu già di te? Aspetta, la volta è nato. Ia. K. Ia. Tu hai riuscito l'importante per l'anno messo? Come? E tu che sei uscito l'importante per l'anno messo, vedi? No, te lo sei per l'anno messa. Allora, e tu dove sei, Giuseppe? Sotto casa già. No, era la persona che mi ha rubato a mia madre, la città d'accanto e ha rubato la macchina e dunque poi sono rientrato qua. Allora. Ma mi sa che domani piove, mi chiede. Vabbè, giusto tenere la pulizia dentro, ho capito già, giù dentro perché faceva un po' schifo. E quello sì, quello già è vero, ma solitamente con questo caldo qua fa di quella pioggia calda, di quella pioggia sporca, c'è un caldo, sporca di quell'arancione. Ho capito, già. Vabbè, pazienza. Cosa vuoi dire? E cosa vuoi che ci faccia? Speriamo di no, perché me l'ho fatto anche io, però ero un po' incerto anch'io. Sei cazzo, ero questo tutto quanto, tappeti, vetri, ho passato il prodotto, tutto quanto, l'ho fatto diventare una macchina seria. Adesso dovrei fare la mia, ma non ne ho voglia. Io me l'ho fatto un giorno alla volta e un giorno alla macchina. Cappa, vabbè, pazienza, là. Quello, andrò domani perché domani si è aperto, mi devo prendere l'olio, hai capito, l'olio motore, un litro costa 4,50 euro, si invece 4 litri, 13,99 euro. Cavagava, e che olio è? Quello di loro, circa mercato. Che marca è? Perché io pago 14 euro al litro. E quello che fanno loro, Cittamercato, ho capito. Ah, ma io che voglio dire, metti, dica a me, come Cittamercato mi ha fatto grippare i bicchieri della macchina. E il K, è l'unico che conveniente è quello, perché gli altri costano dai 26, 52.000, 26, 28, 30, 35. Ma allora l'anima del motore, Giuseppe, se tu risparmi da quelli belli di più per costare il motore, e tanto fare. Vabbè, adesso vediamo domani. Si è aperto, io l'ho preso. E vedo un po' perché mi si è accesa la spia dell'olio e non voglio rischiare, capito? È la pressione. Ah? Qual è la pressione dell'olio? Mi si è accesa la spia dell'olio come ho girato sotto sesto, mi si è girata la cosa, mi si è accesa la luce del coso dell'olio. Ma quello non è di bello, è la pressione. Cazzo, e adesso vediamo. Io il velo dell'olio ho controllato, dai. No, non l'ho controllato. Controllo, vedi, seminari. Adesso controllo, tiro il cofano, vediamo un po' com'è. Sempre. Chi è? Vedi le 10.40, se no faccio il tutto, me. Metti le 10.40, se no sfasci tutto. E già lo so. Ehi, 15.40, hai capito? 10.40, non fare minchiate, Giuseppe. Che è troppo grosso quello lì, c'ha le punte idrauliche con la macchina tua. Vabbè, dai. Ok. Il consiglio che ti do io. Metti il 10.40, perché il 15.40 è troppo grosso, se no comincia a picchiarsi appena ta, comincia a fare, hai capito Giuseppe? Questo è il consiglio che ti do io, se il 15.40 è troppo grosso, perché qua lì c'è le punte di entrambe, stai attento, occhio. Vabbè dai, che lo controllo adesso, l'ultimo momento, e voglio vedere un po', dai. Falchetto. quanti, chissà che cosa, guarderà. Fuori si rovinano. In chiesa. E la Wii. Super Smash Bros. No, così se non c'è un po' più, se non lo la lascio io. Oh, guarda, andiamo fuori. Sì. No, ma io le vuoi... Io voglio prendere tipo le 8. Quelle tipo quelle per tenere anche più, cioè al canale, no? Thank you. Rieci, se ci sei. Attenzione Claudio, canale 10. Attenzione Claudio, canale 10. Se mi ascolti 12. Thank you. Non funzionerà, a volte cosa protegge. No, non c'è più già tutto. Thank you. alla fine della settimana mi hanno avuto che Grazie. Grazie. Thank you. Arizona. Ma che è buffato? E allora? Adesso lo faccio smettere io, guarda, adesso lo faccio smettere, scemi in ci arriva ma non è molto d'estate. Non si può fare questo, c'è il collocamento. ricordo che non ti tiro lì. Ma perché la Sisa lì vicino avrà un ticket tra Sisa? Ah, diciamo l'acqua dolce vecchio, diciamo, dove è il primo che hanno creato. Lì, cazzo, andiamo in isolatre. L'altro è più, l'altro è stata la divisa, quello più giù. Già lo so, mi sono fatto grande qua, già è che non molto che non ci panzico, però già, se più o meno il punto di riferimento già lo so. Gamma, abito in questa zona, dove sono le palazzine blu? Ma quelle di fronte all'ingresso della Sisa, quelle basse? No. Ma è più su, diciamo, più giù abito. Forse adesso mi stai già passando in zona perché ti sento a fondo scala, eh. Ho capito, ma ho capito. Dietro le luci gialle, diciamo, come dite voi. Ma gaffa. Ma c'è cosa, meno che un imbeste con suo ufficio, me. Quello su di ricollocamento. Lo vedo da sera perché c'è l'ufficio del lavoro. Ma non lo so, Popoli. Non lo so. Sono da molto che non giro lì. Era stato 20 anni fa, il cazzo. Mi conoscevano anche i bambini lì. Ciao, ma sei perché sei nato qua? Come? Sei nato qua. E prendevo carbone lì, no? Ah, caffa. Ma da chi andavi da cosa? Da Pala andavi? Siamo amici con Mario. Ah, ma glielo stai dando tu il carbone? No, un mio amico, però tramite me, diciamola. E com'è che glielo stia dando io, diciamo. Caffa. Perché già l'ho visto, sono questo. Se ci conosciamo molto bene con Mario, facciamo lo stesso lavoro. Quindi dagli saluti da Pinuccio del Carbonaio. Già siamo amici. Adesso lo conosco, forse mi conosceva da quando venivo dentro le palle di Papo. Molto bene anche perché abito vicino, abito, mi conosce da bambino, mi conosce e poi faccio lo stesso lavoro giù, lo faccio. Ma tu non ne prendi carbone, no? No, negativo, solo bombole. Non vedi del carbone? Non è colpa mia, no, bisogna dire lo principale. Ma se si rialza qualche giorno qualche cosa, se è bianco per me. Gaffa. Ascolti che una passeggiata, una corsetta, eccoci a rientriamo. Come l'hai gritato, l'ho scritto, non ci vado perché mi sento bene. Ma è male. Ma io l'ho fatta ieri e oggi relax, nulla. Ma è stato troppo ieri che. Ho avuto. Aspetta un po'. Ma avevo che eri via stamattina. Con amici. Niente, una solo, mica due, tre o quattro sicura. Vorrei che una di mazza. Vabbè, mi passa. Sono arrivato a Cavaggio, ho detto un po' di pasta, due sardine. Non ho rovinato. Andare. E vabbè, pazienza. Sì, forte e chiasso. Non so se mi accorgi bene, a me è stato un po' di batte. No, già è acceso, ce l'ho in quel RX.